Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. Patrick Zacchi è un simbolo per tutti noi della difesa dei diritti civili e della libertà di opinione. Abbiamo manifestato in questi 22 mesi, lo abbiamo fatto con le istituzioni locali, tanti comuni hanno dato la cittadinanza onoraria a Patrick e speriamo che presto arrivi anche la cittadinanza italiana, perché Patrick vuole tornare nella sua Bologna a studiare. Quindi Patrick, ti aspettiamo qui, siamo desiderosi di ospitarti, di costruire molto presto un'iniziativa con te per parlare della difesa dei diritti per tutti. Forza Patrick! Quelle che avete sentito sono le parole della Presidente Emma Petitti alla notizia della liberazione di Patrick Zacchi. L'Assemblea Legislativa è stata tra le istituzioni che hanno chiesto la scarcerazione dello studente egiziano, iscritto al Master sugli studi di genere dell'Università di Bologna. E torniamo ai principali argomenti al centro dei lavori dell'Assemblea Legislativa Regionale. In primo piano la seduta straordinaria sul tema della eliminazione della violenza contro le donne. Un fenomeno che è anche e forse soprattutto di natura culturale, ha sottolineato la Presidente Petitti. I lavori d'aula si sono conclusi con l'approvazione all'unanimità di una risoluzione bipartisan per chiedere misure puntuali a 360 gradi per contrastare la violenza contro le donne e ogni tipo di discriminazione e per l'affermazione della parità di genere. Sentiamo le parole di Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare sui femminicidi e su ogni forma di violenza di genere, intervenuta nella seduta straordinaria dell'aula. Oggi la vera scommessa è leggere correttamente che cos'è la violenza maschile contro le donne, riconoscere che dobbiamo cambiare strategia, che inasprire le pene, istituire nuove fattispecie di reato è necessario ma da solo non sufficiente, e che il vero salto di qualità lo dobbiamo fare sul piano culturale, soprattutto sull'abbattimento di stereotipi e pregiudizi che vivono, albergano dentro ciascuno di noi fino ad arrivare anche alle aule di giustizia. Che una scommessa del genere l'assuma come prioritaria anche un'assemblea legislativa come un consiglio regionale è una cosa davvero particolarmente preziosa, e che le parole sentite dalla Presidente di questa Assemblea e soprattutto da un uomo come il Presidente Bonaccini rincuorano tutti quanti noi e ci dicono che stiamo davvero sulla strada giusta. Applauso e merito a chi ha scelto di tenere questa Assemblea. La Commissione Cultura è al lavoro su un progetto di legge che intende valorizzare le case e gli studi di personaggi illustri che hanno abitato e operato in Emilia-Romagna. Grazie alla proposta avanzata dalla Giunta regionale, questi luoghi potrebbero presto contare su un sostegno per la conservazione. Sentiamo cosa ci ha detto a riguardo il relatore di maggioranza Andrea Costa del Partito Democratico. La legge darà la possibilità alla Regione di finanziare tanto interventi in conto capitale, cioè sui luoghi, proprio sui muri, sugli edifici che altrimenti rischiano magari di finire in pregiudizio, ma anche per la promozione, l'organizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale che questi luoghi custodiscono, in un rapporto molto stretto con i territori. Cioè l'idea di questa legge è che a partire dalle case degli illustri possano svilupparsi degli itinerari culturali alla scoperta dei nostri territori. In Emilia-Romagna sono una novantina le realtà pubbliche e private che rientrano nella tipologia di cui tratta la proposta di legge. Potrà accedere ai contributi chi si prende la responsabilità di conservare e promuovere questi luoghi. Sentiamo la relatrice di minoranza, Valentina Stragliati della Lega. Riteniamo fondamentale che le risorse messe a disposizione siano continue nel tempo affinché la gestione di questi luoghi così importanti per il nostro patrimonio artistico e culturale sia una gestione che abbia una sostenibilità nel tempo. Interventi economici a spot riteniamo che non siano assolutamente utili. Rimaniamo in Commissione Scuola e Cultura, dove si sono analizzati dati che riguardano l'ultimo triennio di applicazione della legge regionale che disciplina il sistema di istruzione e formazione professionale. L'obiettivo della Regione è quello di garantire agli studenti un'offerta educativa in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, a partire dalla personalizzazione dei percorsi individuali e sempre nell'ottica di ridurre il rischio dell'abbandono scolastico. Ecco il commento di Giulia Pigoni della lista Bonaccini. I ragazzi si formano bene e trovano il modo di inserirsi nel mondo del lavoro con competenza. Lo dimostrano i dati anche sulla disoccupazione giovanile nella nostra regione, che è molto inferiore rispetto ad altre regioni d'Italia e in generale alla media del nostro paese. Quindi credo che quello che stiamo portando avanti come Regione Emilia-Romagna sia proficuo e utile ai ragazzi della nostra regione. Secondo i dati forniti in commissione, a 6 mesi dalla qualifica ottenuta dopo il corso di formazione professionale, trova lavoro circa il 30% dei giovani a rischio abbandono. Secondo Fabio Bergamini della Lega, servirebbe un passo avanti. È stata fatta in un periodo storico molto diverso, dove anche le questioni ideologiche sul tavolo erano diverse. Oggi crediamo che soprattutto per le aree interne e per la montagna ci sia bisogno di una formazione rapida dopo le scuole medie, che possa davvero far accedere subito i ragazzi appunto alla formazione che desiderano fare. Chi non vuole proseguire gli studi deve avere subito un'opportunità di formazione, e la nostra regione in questo ha davvero tantissimi formatori, e ci saremo anche per votare eventuali aggiustamenti di bilancio per venire incontro a queste nuove esigenze. E ora cambiamo argomento. In Commissione Salute e Politiche Sociali si è tenuta un'audizione per acquisire i contributi di diverse realtà che rappresentano le persone disabili e i loro familiari. Tra i temi trattati, il funzionamento dei servizi nei diversi territori, progetti di vita individuali e indipendenti delle persone disabili, il dopo di noi. Al centro dell'audizione anche i caregiver, i portatori di cura. Su questa figura la Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione che mira a rafforzare alcuni aspetti della legge regionale. Sentiamo la prima firmataria dell'atto, Palma Costi, del Partito Democratico. Noi siamo una delle poche regioni che ha una legge regionale fortemente voluta dalla regione negli anni passati, una legge che ha iniziato il suo percorso di attuazione, ma che oggi, alla luce anche dell'emergenza Covid, necessita assolutamente di essere rafforzata in tutti quei punti che ancora non hanno avuto attuazione. Mi riferisco al tema delle assicurazioni per i caregiver, mi riferisco al tema della certificazione delle competenze che i caregiver acquisiscono facendo appunto assistenza ai propri familiari, che può sempre essere utile nel mondo del lavoro, ma mi riferisco anche alla costruzione di una omogeneità su tutti i territori, quindi molto diffuso, in modo tale che il cittadino caregiver o la cittadina caregiver, perché sono quasi tutte donne, possano trovare delle risposte immediate in punti ben definiti, con persone formate e persone preparate. Siamo al termine della nostra trasmissione. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini, Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire. Direttore Mauro Sardi.